Luponer Summer Spurgo. London, som jag lever, ingenting här är för evigt. Svinden som jag känner när jag tittar upp på stjärnor, de tittar så bort. Orakel, kan du svara? Vakna ur din drogade sömn. Gåtan, jag har löst den. Benvenuti al decimo episodio della seconda stagione di Lupon Air Summer Spurgo, lo speciale estivo di Lupon Air, il programma radio che va in onda tutti i giovedì dal settembre, dal 22 settembre, ma che ve frega, tanto state qua su internet a sentire la voce di Vanni e quella di Flamì che vi ha salutato all'inizio. Abbiamo appena ascoltato il nuovo album, un brano del nuovo album degli Spark, una band di IBM molto melodica dalla Svezia. L'album si intitola Kirkenersluten, che vorrà dire non ne ho la più pallida idea, mentre il brano che abbiamo ascoltato era Rullo di tamburi e tambo di rulluri, come cacchio si intitolava, Hold That Fast Spark. E ora passiamo alla Germania e al metallo. Da Münster arriva questa band di death metal, cioè heavy metal classico con voce death metal, che al debutto l'album si chiama The Skull Throne. Loro sono i Necro Knight, il Necro Cavaliere, bello. Griffin Banners, il brano che ascoltiamo adesso, Necro Knight. The stars are brought to death, those are fear. Lupo On Air, Summersburg. We'll be right back. Interface, questo è il nome di questa band da New York, dal 1993 fa synth pop, IBM, future pop, diciamo, in post industrial, come volete chiamare. Adesso sono arrivati al traguardo del millesimo album, chiamato Zero Sum Equation, e da quest'album abbiamo ascoltato il brano No Cause for Celebration. Loro erano gli Interface. E invece ora da Bristol, UK, Regno Unito, arrivano gli Erotic Secrets of Pompeii. All'inizio dell'anno scorso in realtà è uscito questo album chiamato Mondo Maleficum, ci ha colpito molto, però solo ora riusciamo ad ascoltarne un pezzo in questa puntata di Lupo Nero Summer Spurgo, e a questo che serve lo spurgo estivo. Erotic Secrets of Pompeii dall'album l'album Mondo Maleficum, il brano Tenderness Has Failed Me. Erotic Secrets of Pompeii. Mindless like a horse. Don't ask me for the diagram, it builds up like arsenic. Don't ask me for the recipe, I blame the co-pilot, the hot-headed hominid. I wish for you an off-screen death. Nothing more. No, nothing less. Everything will fall. Keep my violence covered, covered. Make my body crawl. Shut up, brick and bone will break. Don't you know I suffer, suffer. Tell it to me straight. Tell me again, lover, lover. Violence is vocational, magnified, sensational. I blame the co-founder, a hot-headed homophile. Violence is a viscous, sticky little swine. I blame the co-pilot, ever present in the mind. He's got a website on Wix, a flaming crucifix, a bundle of sticks. Fascinating, fascinating, a website on Wix, yeah. A flaming crucifix, a bundle of sticks. Ooh, fascinating, fascinating. Summerspurgo. You make me feel like a pressure from both the directions, and I don't know if I can push it back. makes me feel like I'm comfortable in this place. It's swelling up from the insides of me. Carucci, questi Planet Opal che ci manda la Scintillarte, agenzia ufficio stampa, è un duo di musica elettronica formato da Giorgio Assi e Leonardo De Franceschi, arrivano da l'Italia evidentemente, da quest'album intitolato abbiamo ascoltato il brano Indigo Skies, Planet Opal. Per quanto riguarda le marche che ci abbiamo, invece ci abbiamo Comunione, in realtà risiede a Milano, è un anarco-panchettone pacifista che da un po' vive là, ma noi ci ricordiamo che il giovanotto è marchigiano, per cui ascoltiamo un brano da questo suo ultimo tape EP, Se chiudo gli occhi non esisto, e il brano che ascoltiamo di Comunione si intitola Mai. Luponer, Summerspurgo. But I wanna see. non esattamente un giovanotto perché è del 1957, Tony Butler, con una ampia carriera nei big country, da un po' si è dato al solismo, e questo era un brano dal suo ultimo album No Profit in a Peaceful World. Il brano era All We Are Nothing, Tony Butler. E ora la violenza estrema dei Saguzar. Saguzar sono una band di Bilbao che si autodefiniscono necro di beat dalle fogne basche. Bene, quindi è amore a prima vista, direi. Total Necro di Beat Desecration è il loro ultimo album, e da questo simpaticissimo album ascoltiamo il brano 666 Volt Discharge. Saguzar! Thank you. belle atmosfere minimal techno per l'ultimo album di Monosonic, dei Monosonic, l'album me pare che si chiama The Stars Are Watching, ma possibile che mi sbaglio clamorosamente, invece no, si chiama proprio The Stars Are Watching, e il brano che abbiamo ascoltato era Last Days in Melancholia. Che dire dei Monosonic, che sono un duo di musica elettronica minimale italiano formato da Corrado Altieri e Giorgio Ricci, e se rimaniamo sempre in Italia, sempre con la techno minimale, anzi direi più ambient, decisamente più ambient in questo caso, per il progetto di Raffaele Pezzolla che si chiama Sonologist, che va avanti da parecchio tempo, ha collaborato anche con altri grandi della scena post-industrial italiana tipo MB. Però ascoltiamo un brano dall'ultimo album Planetarium, uscito a luglio. L'album si intitola Planetarium ed è dedicato allo spazio, pianeti, NASA, tutte quelle robe là, e il brano che ascoltiamo è Blue Neptune, Sonologist. Thank you. una bella anteprima di black metal rituale orientaleggiante per gli Ash Magic da Istanbul, Turchia. Questo è un album, l'ultimo album si intitola Rituals of Anathematic East, in realtà deve ancora uscire, cioè esce domani, però noi ce l'avevamo e quindi vi abbiamo fatto ascoltare questo brano, The Kneeling Wretch. E così si conclude questa decima puntata di Lupon Air Summersburgo. In realtà la sto ascoltando un po' in ritardo perché l'ho uploadata adesso che sono tornato da lontano lontanissimo, però era già lì che vi aspettava. A giovedì prossimo più o meno, come sempre, con Lupon Air Summersburgo, e vi salutiamo con i Autumns, che è un progetto di techno body music che arriva da dove arriva Autumns? Arriva da dal pianeta Terra. Dalla loro cassetta Take the Bait ascoltiamo il remix di Black Light Smoke di Face, del brano Face Not Valued. Autumns, e a noi a giovedì prossimo con Lupon Air Summersburgo. Lupon Air Summersburgo. Mi sono scordato una cosa importantissima che fa molto anni 80-90. Miau.